Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Oh, dunque, all'Università Bicocca di Milano c'è stato il primo convegno nazionale sul sadomasochismo. Ne parliamo fra un po'. Buonasera a tutti e tutte, benvenute a Möbius e adesso ascoltiamo i titoli di questa puntata. James Bond fra i telescopi. Per il nuovo film, la troupe ha girato alcune scene a 2500 metri sul Paranal, in Cile, dove si trova il più grande telescopio ottico del mondo. Cosa sentiamo quando vediamo qualcuno che prova dolore? Ce lo dicono gli studi sull'empatia, che ci raccontano anche come alcuni di noi restano indifferenti. Ricostruire le relazioni di parentela di una famiglia pompeiana distrutta dalla storica eruzione è oggi possibile grazie all'analisi genetica del DNA antico. Evangelista Torricelli, storia di uno scienziato eccezionalmente prolifico e prudente. All'Università Bicocca di Milano, il primo convegno nazionale sul sadomasochismo. In Italia sono più di 3 milioni i praticanti, ma è sbagliato parlare di patologie. Siamo nel mezzo di una bella crisi economica, ma un modo per uscirne è certamente saper innovare. Riusciremo a farlo in Italia? Combattere le epidemie, strategie contemporanee, problemi reali e pericolosi allarmismi. Sono almeno 50 anni, non di meno, che questa musica, anche ascoltata per, credo, qualche frazione di secondo, ci ricorda James Bond. Ma perché stiamo per parlarvi di James Bond, del film che è appena uscito qua in una rubrica di scienza? Ecco, lo faccio raggiungendo su Skype, come facciamo spesso, Paola Rebusco. Ciao Paola. Ciao, buonasera. È arrivato dalle vostre parti James Bond con quest'ultimo film, perché alcune scene fondamentali sono state girate proprio lassù. Esattamente dove? Sul Paranal, in Cile, quindi non proprio dalle mie parti, dalle parti dell'ESO. Sì, tu adesso sei a Boston. Devo ricordare, proprio per questa intervista, che in particolare tu fai ricerca proprio nel campo, in questo campo, e sei anche, fai parte dell'ESO, dell'European Southern Observatory, insomma, di questa grande struttura basata in Europa, ma che poi lavora con i telescopi al Paranal. Quindi siamo in Cile e in un posto assolutamente eccezionale, no? Sì, a 2600 metri di altezza, nel deserto di Atacama. Che è uno dei deserti più deserti che esistano. Esattamente. Mi pare che sia, sbaglio, o è quello con il tasso di umidità più basso? Ah, proprio il deserto più secco, ed è per questo che è stato scelto per fare osservazioni. Certo, certo. Allora, in questo film che noi non abbiamo ancora visto negli Stati Uniti, poi da te non è ancora arrivato qui, io confesso, è nei cinema da pochi giorni, c'è tutta una serie di sequenze piuttosto lunghe che si svolgono. Ecco, ma scusa, ho visto che la troupe era composta da 300 persone, mi è venuto in mente, ma hanno potuto muoversi vicino a questi telescopi, che sono di una delicatezza e quindi anche di un costo impressionanti? Sì, la troupe cinematografica in realtà non si è avvicinata troppo ai telescopi, perché le scene sono girate a quello che possiamo dire l'hotel dell'ESO, dove risiedono gli astronomi quando fanno osservazioni. Ecco, io infatti ho visto un documentario che poi chi ci ascolta può trovare a partire dal nostro sito, dove andarlo a vedere, c'è un link preciso, un documentario dell'ESO. Ho visto effettivamente che ci sono delle scene svolte in una struttura, però siccome i telescopi sono lì vicino, invece no, tu mi confermi che non è stato dato permesso, insomma, di avvicinarsi. No. Erano interessati proprio non tanto ai telescopi, quanto alla struttura di questo hotel, la residenza. La residenza. Ecco, ho visto questa residenza per astronomi, per ricercatori. Beh, insomma, devo dire che, certo, dovendo vivere in un deserto, un po' di comfort forse l'hanno dovuto costruire, però è un albergo molto bello, c'è dentro una specie di foresta ricostruita, una piscina coperta, mi sembra molto bello. Sì, infatti, non solo un po' di comfort, molto comfort, perché la vita dell'astronomo è dura. Svegli di notte, bisogna dormire di giorno, per cui è importante avere un ambiente accogliente. Bene, allora probabilmente molti di quelli che ci ascoltano hanno già visto questo film, è stato campione di incassi qui in Italia, fuori da pochi giorni, io non l'ho ancora visto. Negli Stati Uniti mi pare arrivato da un giorno soltanto, quindi tu lo vedrai Nel fine settimana, nel fine adesso. settimana. Comunque, certo, questi paesaggi sono assolutamente eccezionali e vi avvisiamo che quello che vedrete in realtà è un pezzo di un'installazione di ricerca, forse una delle installazioni di ricerca più strane e più originali che ci siano al mondo. Volevo solo dire che nel film, quando lo guarderete o se l'avete già visto, la residenza va sotto il nome di Perla de las Dunas, un hotel che nel film è situato in Bolivia. Ah sì, quindi hanno scelto il luogo dal punto di vista della spettacolarità della natura, però poi l'hanno trasportato in Bolivia perché evidentemente è lì che ha senso per la storia. Va bene, ciao Paolo, a presto. Ciao, a presto! Parto ora da una definizione, empatia, che si rifà a una fenomenologia e a qualcosa di veramente importante e cruciale per la nostra esistenza. Con empatia intendiamo la capacità di condividere emozioni con gli altri viventi della nostra specie o no, e anche gli animali, quindi. Per parlare di questo ho mio ospite questa sera, Salvatore Maria Aglioti. Buonasera Aglioti. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Neuroscienziato cognitivo, insegna e fa ricerca presso l'Università La Sapienza e poi anche alla Fondazione Santa Lucia. Tra l'altro Aglioti, in apertura, empatia non è solo una relazione tra noi esseri, specie umane e altri viventi, ma viene anche studiata tra gli animali, insomma. Sì, ci sono dei precedenti di empatia tra gli animali. Per esempio, nei primati vicini a noi, ma non solo, la reazione che si ha allo stress di un altro della specie è esattamente sovrapponibile a quella che c'è tra umani. Va bene. Senta, di solito quando parliamo di queste cose che riguardano gli studi e gli esperimenti sui comportamenti, noi troviamo utile incominciare a discutere con il teatro sperimentale, cioè le chiediamo di descriverci come lavoravate e quindi che cosa avevate nel vostro laboratorio e come andavate a cercare le cose. Provi un po' a introdurci in questa stanza. In questo specifico gruppo di esperimenti noi abbiamo usato una tecnica neurofisiologica che si chiama stimolazione magnetica transcranica e che consiste nel dare degli impulsi magnetici tramite una bobina stimolante che si posiziona sul cranio dei soggetti sperimentali. Questa bobina, questo impulso dato tramite la bobina, attiva il sistema motorio nel nostro caso. Noi rileviamo l'attività tramite dei sensori posti per esempio sulla mano del soggetto, quindi stimoliamo il cervello e registriamo l'effetto di questa stimolazione tramite sensori posti sulla mano. Va bene. E poi a questi soggetti che cosa presentavate? Quali segnali gli mandavate? I soggetti osservavano in diverse condizioni di video diversi. Noi eravamo interessati, siamo interessati soprattutto all'empatia per il dolore, cioè cosa si prova quando si vede un altro individuo soffrire. E per avere una situazione controllata, molto semplificata, abbiamo usato un video nel quale si vedeva una mano penetrata da una siringa. Questo era il video nel quale noi ci aspettavamo, la domanda era: io vedo quest'altro, è una mano, è di un individuo che non conosco, reagirò a questo stimolo in maniera empatica o in che modo? Ovviamente questo è il nostro film, diciamo, stimolo cruciale, ma noi abbiamo bisogno nella ricerca scientifica di stimoli di controllo. Quindi i soggetti osservavano anche il video di una mano che veniva toccata da un cotton fioc in maniera gentile. Quindi, e poi, come ulteriore condizione di controllo, abbiamo usato un ago che penetra un pomodoro. Quindi no, uno stimolo non biologico, però la siringa ha l'aspetto della penetrazione che Sì. può essere fastidioso, ma non dovrebbe suscitare empatia. Bene, a quali conclusioni siete arrivati? Credo anche mettendo in campo altri soggetti, forse anche con altre condizioni sperimentali. Certo, allora il primo risultato riguarda soggetti presi da popolazioni senza patologie segnalate. Il primo risultato è stato questo, che il sistema motorio dell'osservatore si inibisce specificamente quando l'osservatore guarda il film del lago che penetra la mano. E Questa riduzione di attività del sistema motorio è un po' come quando noi ci prendiamo una vera iniezione su di noi e il dottore dice rilassati altrimenti senti più dolore. Ecco, il sistema motorio si rilassa quando vede il dolore dell'altro, anche se l'altro è uno sconosciuto. Quindi è una forma di empatia che prescinde, molto primitiva in un certo senso, che prescinde dalle valutazioni amo, odio quel soggetto fa parte della mia cerchia affettiva. E una forma di reattività molto di base degli esseri umani verso la sofferenza di essere altri esseri umani. C'è la sensazione di avere qualcosa a che fare con quell'ago che penetra, insomma. Esattamente. Cioè, c'è una risposta. Cioè, va bene. Questo su soggetti normali. Poi, ovviamente, il punto è, sappiamo che ci sono delle patologie, diciamo delle condizioni, nelle quali la reattività empatica è ridotta. Una di queste condizioni è l'autismo. Nell'autismo, nel corredo, diciamo, sintomatologico dell'autismo c'è la scarsa reattività agli altri, e noi abbiamo esaminato un particolare sottogruppo di soggetti con disturbi dello spettro autistico, vale a dire pazienti con sindrome di Asperger, che sono dei soggetti con intelligenza normale o anche superiore al normale, che però non riescono a stabilire relazioni sociali perché non hanno interesse, in un certo senso, e non comprendono quello che gli altri provano. L'applicazione di questo paradigma sperimentale, cioè l'osservazione degli aghi, l'osservazione dell'ago nel pomodoro, eccetera, in questi soggetti non ha comportato nessuna modifica del sistema motorio. Cioè il nostro indice di empatia in questi soggetti mostrava che loro non reagivano al dolore altrui. E la cosa, diciamo, particolarmente nuova di questo risultato è che non è necessariamente un deficit che riguarda gli aspetti alti dell'empatia, tipo la cosiddetta teoria della mente, immaginare quello che l'altro sta pensando, ma è anche un deficit che riguarda gli aspetti più elementari della reattività interpersonale. Cioè non è necessariamente legato al fatto che la persona che soffre è parte della propria cerchia affettiva. È proprio come se la base sia di una scarsa reattività agli altri. Grazie Aglioti e buona ricerca. Grazie. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Pronti? Perché sta per arrivare il nostro gioco, il quiz. Quante volte abbiamo visto le lunghe file di uccellini che se ne stanno sui cavi elettrici, belli, ordinati? Bene, ma perché agli uccelli piace questa disposizione, ovvero stare lassù? Ed è così in tutto il mondo, ovunque ci siano dei cavi aerei. Perché uno potrebbe anche domandarsi cosa facevano i pennuti volanti quando non c'erano i cavi dell'elettricità. Ecco le tre risposte. La prima, ci sono i grandi misteri che riguardano l'universo, ma anche i piccoli misteri. Bene, nessuno sa da dove nasca questo comportamento degli uccelli. Ci scriverete mistero. Seconda risposta, fa parte della natura profonda degli uccelli mettersi in un posto da cui possano dominare lo spazio sottostante per adocchiare subito piccole prede o cibo in genere. I cavi sono perfetti per questo scopo. Ci scriverete spazio. Terza possibile risposta, i cavi attraversati dalla corrente elettrica, di cui gli uccelli non risentono, lo ricordiamo, perché stanno con le zampe sul cavo e non toccano nient'altro, quindi non c'è un flusso delle cariche, la corrente allora genera però un lieve tepore e questo a loro piace. Ci scriverete tepore, lo scriverete con il solito SMS 349-238-6666. Il libro che si vince è L'erede di Galileo, vita breve e mirabile di Evangelista Torricelli, l'autore Fabio Toscano, l'editore è Sironi. La mia personale opinione leggendo il libro è che Torricelli molto probabilmente sapeva tutte le cose che sapeva Newton, ma non poteva dirlo. Dovete leggere il libro per sapere come mai si può avere questa impressione. In collaborazione con IBS.it. La cosa più sorprendente di Pompei e della sua storia di città distrutta da quell'antica eruzione del vulcano è che questa storia è infinita. L'archeologia soprattutto, ma anche altre scienze, ogni tanto ci raccontano un aspetto nuovo di questa vicenda. Questa sera Chiara Albicocco vi propone una singolare triade: genetica, Pompei e la storia di una famiglia che in quella cittadina viveva 2000 anni fa. Sinfonia notturna di Pompei, sul cui sfondo, per una ripresa di attività, il Vesuvio erutta lingue di fuoco ed altissimi pennacchi di fumo senza però turbare la pace della città di Sepolta, che sembra rivivere ai piedi del gigante corrucciato in tutto lo splendore della sua grazia incomparabile, fantasmagoricamente fasciata dal bagliore di mille piccoli soli, accesi per prodigio di una luminaria 900 nella notte in lune. Questo è l'audio di un video storico dell'Istituto Luce. Risale al 23 agosto del 1939, quando il Vesuvio, in eruzione, minacciava l'antica città di Pompei. Subito ci riporta alla mente la più ben nota eruzione del 79 d.C., ben documentata e descritta dalle lettere di Plinio il Giovane. Anche quella era una calda giornata di agosto a Pompei e la vita trascorreva placidamente. I pompeiani erano impegnati nei lavori quotidiani. Sappiamo che i ricchi al mattino attendevano l'omaggio dei loro liberti nel triclinium, delle loro case da oltre 3.000 metri quadrati. E i pompeiani amavano fare la bella vita. La città era piena di terme, frequentate tutti i giorni, sia dai ricchi che dai poveri. C'erano palestre, osterie e numerosissimi teatri per gli spettacoli. Pensate che nel calendario romano erano previsti ben 182 giorni di festa su 365, ecco, non male. E una cosa ancora più interessante, per quanto mi riguarda dire la verità, era che il vero ozium apparteneva alle donne, alle matrone. Giulia! Si occupavano per gran parte della giornata alla cura del loro corpo e alla bellezza. Ecco, trucco ricercatissimo, pettinature molto sofisticate, con parrucche che arrivavano persino dalle Indie. Ovviamente questo per quanto riguarda i ricchi. Le strade di Pompei erano sempre affollatissime, mulattieri, mercanti in fermento, per vendere tutti i tipi di merce. Arrivavano dalle campagne, ma anche da fuori, e le botteghe affacciavano direttamente sulle strade principali, quindi possiamo immaginarci quale fosse il rumore per le strade. Ma ricchi e poveri vivevano gomito a gomito. Le case dei mercanti, dei borghesi e degli schiavi erano adiacenti, nella stessa via, in case limitrofe, ovviamente con dimensioni e fatture diverse. Era una calda giornata estiva, dicevamo, e ci immaginiamo i pompeiani immersi nelle vasche di vapore delle terme, i mercanti sulle strade a contrattare i prezzi della lana, le donne intente a imbellettarsi con talco e unguenti, ma ad un certo punto, verso sera, all'ora del tramonto, scese la notte, non come quando v'è la luna o il cielo è nuvoloso, ma come quando ci si trova in un locale, chiuso, a lumi spenti. Queste le parole che usò Plinio il Giovane nella lettera a Tacito per descrivere la terribile eruzione. I 6 metri di cenere e di lapilli ricoprirono la città e i suoi abitanti nel 79 d.C. e quella coltre di cenere ha fermato anche il tempo. È per questo che oggi conosciamo tutti questi dettagli sulla vita pompeiana. Gli edifici e i corpi delle vittime rinvenuti dagli scavi ci forniscono costantemente nuove informazioni. E oggi voglio proprio parlarvi di uno di questi aspetti e in particolare di quelli che sono gli studi genetici, sulle analisi che si possono effettuare sul materiale genetico nei reperti antichi, il cosiddetto DNA antico. Qualche giorno fa si è tenuto a Pompei, proprio a Pompei, un evento piuttosto affascinante, anche per i non addetti ai lavori. Ecco, si trattava della 9ª conferenza internazionale sul DNA antico. Tra i lavori presentati ce n'è stato uno particolarmente interessante, poiché per la prima volta si è riusciti a studiare i legami di parentela di una delle famiglie pompeiane rimaste sepolte, la famiglia dei Polibi, cioè quella che ha dato il nome ad una delle case su Via dell'Abbondanza, che è proprio una delle vie principali di Pompei. E in questa casa sono stati ritrovati ben 13 scheletri, divisi in 2 stanze. La professoressa Marilena Cipollaro, che è docente di medicina sperimentale alla Seconda Università di Napoli, ha diretto gli studi su questi reperti ed è nostra ospite questa sera. Buonasera, professoressa. Buonasera. Dunque, abbiamo detto che il convegno sul DNA antico si è tenuto proprio lì a Pompei. Lei è una delle organizzatrici, intanto ci può raccontare che cosa è emerso in questi giorni di convegni? Beh, guardi, il convegno è stato molto interessante perché ha guardato il DNA antico sotto molti aspetti, e sia si è trattato di sapere cose nuove sia sul DNA estratto da reperti umani, ma anche reperti animali e vegetali. Gli altri aspetti poi hanno riguardato anche aspetti tecnici. Certo. Per il recupero di queste molecole danneggiate dai vari tipi di reperti, perché diciamo ormai si sa che il DNA antico subisce delle modifiche durante il tempo, e quindi questo rende difficile poi la sua analisi, ma diciamo anche condizioni al contorno, condizioni ambientali, il tipo di suolo, il tipo di seppellimento. Ecco, anche le tecniche di studio quindi sono in continua evoluzione. Certamente sì, certamente sì. E dunque ora veniamo al suo studio. Lei ha studiato la genetica dei pompeiani. Ecco, che cosa avete scoperto di nuovo? La novità che abbiamo trovato è che diciamo ci era già stata suggerita dalle condizioni di ritrovamento di questi scheletri, perché due di essi sono stati trovati in mano nella mano, ma poi ancora due erano affetti da una patologia che è familiare, cioè la spina bifida, che è stata... Che è una malattia ereditaria, peraltro, quindi lo studio del DNA aiuta in questo. Certamente sì, perciò il DNA in questo caso si è verificato un ottimo strumento per validare dati che erano stati suggeriti da, diciamo, dagli antropologi. Va bene, quindi noi abbiamo confermato questa supposta parentela, nel senso che abbiamo studiato un particolare tipo di DNA, quello mitocondriale, che si eredita soltanto per via materna. Noi abbiamo potuto studiare solamente i legami di parentela per via materna, perché il DNA mitocondriale è quello che si conserva meglio. Certo. All'interno dei reperti umani, perché diciamo è rappresentato da un gran numero di copie. E invece è più difficile studiare il DNA nucleare, che ci permetterebbe invece di stabilire una parentela anche per via paterna. Ma in ogni modo le informazioni che abbiamo avuto sono queste, cioè sei di questi individui che sono stati trovati in questa casa dei polibi, che erano 13, sì. Sei di questi sono sicuramente legati per via materna, e anche la loro età è consistente con queste informazioni che ci ha fornito il DNA. Si tratterebbe quindi di sei fratelli o di sei cugini per via materna che erano lì presenti, e una di queste era una giovane donna di 16-18 anni che era diciamo all'ultimo mese di gravidanza. Siamo riusciti quindi a costruire un pedigree per via materna. La cosa che ci ha stupiti è che tra le donne anziane, ce n'erano due in questa casa, sì, nessuna delle due è compatibile per essere la madre di tutti questi sei fratelli, oppure diciamo la zia, va bene, perché il DNA di queste signore anziane non è compatibile col fatto di essere o la madre o la zia. E quindi qui si apre uno scenario, bisogna investigare, qui la fantasia, insomma. La fantasia in questo caso diciamo la possiamo utilizzare alla grande. Va bene, professoressa, allora la ringrazio e buon lavoro. Grazie altrettanto. Accennavo poco fa al libro su Evangelista Torricelli. È Maurizio Melis che ora vi parla più ampiamente di questo nostro grande scienziato, in realtà poco conosciuto, un po' troppo dimenticato, insomma. Ascoltiamo. Folle sarebbe stato proclamare la propria fede in Copernico. Folle e gravido di conseguenze. Eppure, poco dopo la morte di Evangelista, la sua servitrice, Diadora, confidò che egli lavorava di giorno e la notte osservava le stelle. In questo passo dell'ultimo libro di Fabio Toscano, L'erede di Galileo, edizione Sironi, c'è tutto il dramma e la contraddizione di uno dei più grandi scienziati del Seicento, Evangelista Torricelli, da tutti considerato l'erede di Galileo. Fu nominato suo successore dal Granduca di Toscana nel 1642, appena dopo la morte del maestro. E se da un lato ciò lo proiettò ancora giovane ai vertici della scena intellettuale europea, aveva solo 33 anni all'epoca, dall'altro, a causa dei recenti contrasti tra la Chiesa e Galileo, la poltrona di matematico di Sua Altezza il Granduca era tra le più strettamente sorvegliate dall'Inquisizione. Insomma, una poltrona prestigiosa, ma scomoda, su cui Torricelli sedette fino alla morte con grande pragmatismo, ma forse non senza qualche rimpianto. In realtà le vite dei due nomi si incrociarono solo per un periodo molto breve, durante il quale Torricelli divenne assistente di Galileo. Entrambi però, quando ciò accadde, desideravano incontrarsi da tempo. Torricelli, perché era un galileiano convinto, considerava Galileo il padre del cambiamento intellettuale che soffiava su tutta Europa. E inoltre, uno stage con Galileo, oggi lo definiremmo così, era il meglio a cui poteva aspirare un giovane matematico ambizioso e desideroso di affermarsi come Torricelli. Galileo, da parte sua, era altrettanto ansioso di conoscerlo, perché aveva intravisto nei lavori del giovane Torricelli, specialmente i lavori matematici, la profondità di pensiero e la visione di un grande scienziato. Purtroppo però i due condivisero infine solo poche settimane, perché meno di un mese dopo l'arrivo di Torricelli a casa di Galileo, questi si ammalò e morì. Nonostante le affinità che indubbiamente legavano i due scienziati, Torricelli e Galileo furono due personalità molto diverse. Torricelli fu uno scienziato assai più attento al quieto vivere del maestro. Basti pensare alla questione del vuoto. A quel tempo il tema dell'esistenza del vuoto era decisivo e, si badi bene, contrario alla disciplina aristotelica, era cioè qualcosa in odore di eresia. Ebbene, quando con il suo capolavoro, il barometro, Torricelli non solo dimostrò il peso dell'aria, ma soprattutto creò per la prima volta il vuoto, lo scienziato fu a dir poco molto prudente, si garantì la priorità della scoperta e poi passò immediatamente ad altro. Evitò di filosofeggiarci sopra, insomma, o forse si trattenne a stento dal farlo, chissà quante volte nella sua vita, non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che morì a 39 anni e nella sua breve vita riuscì anche a divenire uno dei migliori costruttori di telescopi del suo tempo. Di certo provava una ad una le sue lenti, ma non parlò mai di astronomia. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Il convegno sul sadomasochismo all'Università Bicocca di Milano, è ovvio che ci viene a tutti uno strano sorrisino se si profila un tema come questo, è stato però un convegno molto serio e molto scientifico, con dati e considerazioni che direi sorprendenti. Si parla nel gergale tecnico di BDSM, Bondage Discipline Sadomasochism, sostanzialmente pratiche sadomaso nelle quali si usano legamenti. Per Möbius ha seguito il convegno Marco Boscolo. Ascoltiamo. Il DSM è un acronimo, come potete vedere qua dietro, che sta per bondage, quindi i legami fisici, quelli delle corde, delle catene, ma anche i legami emotivi, la disciplina. Quindi una serie di regole di comportamento che portano a dei risultati e degli obiettivi comuni condivisi dal partner, o la dominazione, che è un istinto perché non ha bisogno di spiegazioni, la sua controparte, la sottomissione, che può arrivare al concetto di schiavitù, e poi il sadismo e il masochismo, che sono due istinti e due comportamenti abbastanza comuni, che appunto vengono declinati in maniera molto diversa a seconda che si parli di DSM o di sadomasochismo in senso patologico clinico. Con queste parole, Aysad, giornalista ed esperto della cosiddetta scena BDSM in Italia, ha aperto l'incontro Questione di ruoli, un'introduzione scientifica al fenomeno del BDSM, organizzato dal collettivo omosessuale dell'Università Bicocca di Milano. Fatta eccezione per i padri della psicanalisi che hanno trattato i casi di alcuni praticanti del BDSM che sfociavano nella patologia, la psichiatria e la sessuologia hanno trascurato il BDSM. Solo recentemente sono stati realizzati studi più approfonditi. Uno di questi, presentato all'incontro della Bicocca dallo psichiatra e sessuologo Alberto Caputo, mostra risultati sorprendenti. Le conclusioni, i loro dati supportano l'idea che il BDSM è semplicemente un interesse sessuale o una sottocultura sessuale che interessa a una minoranza, per i quali praticamente, per i partecipanti, non rappresenta un sintomo psicopatologico di un abuso, oppure una difficoltà con il sesso convenzionale. Questi sono una serie di cose estremamente importanti, perché fino adesso il BDSM è stato accostato non a una cultura, ma a una patologia. Il BDSM è un comportamento sessuale che per i suoi praticanti non rappresenta un disagio psicologico o sociale. Ma allora, quando è che un comportamento sessuale diventa patologico? Lo abbiamo chiesto ad Alberto Caputo subito dopo il termine del convegno. Quando è sicuramente ego distonico, cioè non viene vissuto come proprio ma come obbligato, quindi diventa in qualche modo ossessivo e compulsivo, quindi genera un distress alla persona e poi in qualche modo va a invadere anche altre aree che non sono quelle della camera da letto, per cui ha delle ricadute a livello lavorativo, nelle relazioni interpersonali, a livello della capacità di costruirsi una vita. A questo punto può essere inquadrato, se presente per almeno 6 mesi, all'interno di una condizione di tipo patologico. Quando parliamo di BDSM, di che numeri parliamo? Quanti sono i praticanti in Italia? Lo abbiamo chiesto ad Aizad, che ha scritto un libro intitolato proprio BDSM, uscito qualche anno fa per Castelvecchi. Non solo il BDSM, ma tutte le sessualità alternative hanno un 10% di praticanti, che, rapportato alla popolazione italiana, significa circa 4 milioni di persone. Queste persone praticano, in un modo o nell'altro, giochi di erotismo estremo, che vanno dal facciamo sesso bendati a cose esuberanti e eccezionali. Il BDSM è spesso associato a un tipo di pornografia estrema, soprattutto diffusa via internet. Ma che relazione c'è con la pratica reale? Nessuna, assolutamente. La pornografia è comunque una rappresentazione dell'eccesso in ogni sua forma. Nel caso del BDSM, delle sessualità alternative in particolare, comunque raggiunge eccessi assolutamente folli. Nell'immaginario collettivo, poi, il BDSM è spesso associato alla violenza. Ma è davvero così? Nell'immaginario sì, nelle rappresentazioni mediatiche sì. Oggi abbiamo fatto una trattazione abbastanza esaustiva del fatto che, appunto, invece chi pratica BDSM, che è una cosa molto differente dal sadomasochismo patologico, le patologie vanno curate sempre e comunque, ma il BDSM, che è per definizione appunto sano, sicuro e consensuale, è una forma di relazione matura basata sulla comunicazione, è tutto tranne che violento. Innovazione vuol dire investire. C'è una crisi economica che è una delle peggiori di tutti i tempi. Allora che si fa? Bisogna essere ancora più bravi a innovare. La Fondazione Cotec, che si occupa di questi argomenti, vi propone anche in questa puntata una riflessione sulle reali capacità innovative del nostro paese. Ascoltiamo il servizio di Barbara Gallavotti. L'Italia è un paese in declino o no? Cioè, la nostra economia è adeguata a rispondere alle sfide della globalizzazione ed è in linea con le strategie adottate dagli altri paesi avanzati, soprattutto quelli europei, o meno? Ne parliamo con Daniela Palma, ricercatrice presso l'ENEA nel settore di economia dell'innovazione e dello sviluppo. Buonasera. Buonasera. Lei ha sostenuto in diverse occasioni che nel rapporto fra l'economia italiana e l'innovazione esiste una specie di sbilanciamento, cioè la nostra richiesta di innovazione è paragonabile a quella dei paesi più avanzati, ma la nostra offerta è inferiore. Può spiegarci questo punto? Certamente. L'Italia, se la vediamo nel suo insieme, appare assolutamente confrontabile con gli altri maggiori paesi industrializzati per ciò che concerne la domanda di innovazione, che poi l'innovazione di cui necessita un'economia avanzata per poter funzionare. Rispetto però ai partner consimili, il sistema Italia appare molto sbilanciato nella qualità della propria offerta produttiva, e cioè manifesta una carenza sempre più forte dal lato della produzione di tecnologie avanzate che debbono essere così introdotte all'interno del sistema economico tramite importazione, causando deficit commerciali sempre più ampi e determinando in questo modo l'emersione di una componente di vincolo estero allo sviluppo. Questo è ciò che caratterizza il modello italiano di sviluppo, un modello frenato dalla capacità di produrre innovazione. Il nostro sviluppo dipende dalle nostre possibilità di comprare innovazione dall'esterno. Assolutamente. Cosa intendiamo per tecnologie avanzate? Lei ne ha parlato prima, noi dobbiamo acquistare sì. Tecnologie avanzate. Cosa sì. Sono? In linea generale, volendo utilizzare alcune approssimazioni ma rispondenti a ciò che si intende per tecnologie avanzate, parliamo di tecnologie che sono ancora molto strettamente collegate alla conoscenza scientifica. In senso più specifico, anche se relativamente ampio, possiamo fare riferimento a quelli che sono i settori dell'informatica, della componentistica elettronica, la meccanica avanzata, gli strumenti di precisione e la farmaceutica, oltre alla più classica industria aerospaziale. Questa frattura fra la nostra capacità di consumare tecnologia e di offrire tecnologia, secondo lei, come si è creata? L'Italia si è sostanzialmente radicata in un modello produttivo e anche di sviluppo che è centrato, come è noto, sulla presenza di un insieme molto articolato, nonché dinamico, di piccole e medie imprese nei settori tradizionali. Questo modello ha avuto modo di concorrere a un successo dello sviluppo italiano, non senza ragione. Però paradossalmente questo forte successo si è anche caratterizzato in un periodo nel quale cominciavano ad avvenire importanti cambiamenti nei processi produttivi e nell'innovazione in generale. Così, mentre alcuni paesi potevano più facilmente andare a convergere su questi nuovi modelli di sviluppo centrati sulle tecnologie più avanzate, l'Italia è stata in qualche modo ostacolata in questa convergenza e si è prodotto quello che in gergo viene chiamato come lock-in, cioè un inchiodamento del sistema produttivo in questi settori e su questa struttura produttiva. E noi ci siamo trovati una sorta di nicchia in cui sì, eravamo molto bravi, stavamo sì, molto bene, però come spesso succede in evoluzione, questa nicchia poi si è rivelata essere un vicolo cieco. Sì, un vicolo cieco, nel senso che si sono poi ridotti sempre più gli spazi di questa nicchia, proprio perché i fronti dell'innovazione e dello sviluppo in genere andavano lungo altre direzioni. E rischiamo di fare un po' i panda dell'economia europea? In qualche modo sì, ma il problema è che rischiamo un'espulsione dall'economia mondiale, nel senso che se si crede di potersi confrontare anche con paesi che non sono europei su segmenti ad alta intensità tecnologica, anche lì la sfida è perdente, perché vedi, i paesi emergenti, come sappiamo sempre di più, sono soggetto di sviluppo sulle nuove tecnologie e quindi, come vediamo, è tutta la domanda mondiale che si sta riposizionando altrove, per cui rischiamo brutto da questo punto di vista. Grazie Daniela Palma, buonasera. Buonasera. Quando guardiamo qualcuno in faccia, appena lo incontriamo, guardiamo, dove guardiamo, secondo voi? Mi piacerebbe avere davanti, come in una grande assemblea, tutti voi ascoltatori e ascoltatrici, provare a vedere per alzata di mano che cosa direste. Secondo me a nessuno viene in mente il naso, almeno. A pochi, credo, o sbaglio. La cosa singolare, se ci pensate, è che la nostra coscienza, le nostre idee su quello che stiamo facendo, sono diverse da quello che fa il nostro corpo. Oggi ci sono dei sistemi molto semplici ed efficienti per tenere sotto controllo il movimento degli occhi e sapere dove si posano mentre pennellano il mondo che ci circonda. Sono sistemi che derivano dalle ricerche militari, in particolare quelle sui piloti di aerei da combattimento. A loro basta inquadrare un bersaglio con gli occhi e il puntamento è assicurato. Fortunatamente l'umanità si guarda in faccia anche senza l'idea di dover sparare a qualcuno. Ed è qui che un gruppo di ricerca della Scuola di Ingegneria di San Diego, negli Stati Uniti, ha progettato l'esperimento, che per essere precisi è più sofisticato di come vi ho detto finora. L'interrogativo da cui sono partiti era il seguente: cosa si osserva quando il compito è riconoscere un volto che si è visto? È ovvio che la risposta sia poi strettamente collegata a quello che guardiamo nel momento in cui ci appare un volto. E infatti è così. Però una verifica più forte arriva dall'aver constatato che usiamo il naso come il primo elemento da cui partire per riconoscere tutto il resto. Detto questo, perché perdere l'occasione di parlare di armi, visto che già l'abbiamo fatto poco fa? Ma sì, dunque, ai cittadini della contea di Orange, nello stato di New York, potrebbe accadere di vedersi puntati da una pistola e da una telecamera contemporaneamente. Naturalmente ciò dovrebbe accadere ai cittadini che stanno per combinare o hanno appena combinato qualcosa di poco legale. La polizia li scopre o arriva chiamata da qualcuno e che gli agenti estraggano delle pistole è altamente probabile. Come avere una prova tangibile, si è chiesta la direzione della polizia della contea, che se le armi entrano in funzione c'erano delle evidenti buone ragioni. La soluzione è una piccola telecamera applicata alla canna della pistola. Come si estrae dalla fondina, la telecamera si accende e riprende, audio compreso. Se di fronte alla gente c'è qualcuno che ha un evidente atteggiamento aggressivo, magari con una pistola in pugno, bene, sarà difficile buttarla via per poi sostenere in aula, al tribunale, che non si era armati o che comunque non si aveva in mano quest'arma. Si osserva che il marchingegno è anche una garanzia in senso inverso. Se la polizia sparasse senza validi motivi, un video starebbe lì a dimostrarlo. Soluzione del quiz, che era: perché gli uccellini stanno così tanto volentieri sui cavi elettrici? Allora, non è un mistero, vi dicevo, perché la cosa si è capita e non c'è nessun tepore che attira gli uccelli, visto che a mezzogiorno, in piena estate, non perdono l'abitudine di appollaiarsi lassù. Invece è lo stare in alto che appartiene alla loro natura profonda, in alto e con visibilità. Infatti, per individuare la risposta giusta, si poteva ragionare sul fatto che gli uccelli stanno anche in fila sui bordi dei tetti, anche sui tiranti dei ponti e naturalmente sui rami esterni degli alberi. Questa era la soluzione ed ora. Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Cosa sta accadendo su Eris? Siamo ai confini del nostro sistema solare ed Eris è un pianeta nano, poco più grande di Plutone. Fino a un anno fa questi oggetti celesti erano considerati pianeti, ma poi si è deciso che al di sotto di una certa dimensione non si può parlare di pianeti. E così è nata la definizione di plutoidi, proprio perché il cambiamento è nato dal declassamento di Plutone. Torniamo a Eris. Qualcosa di strano sta accadendo lassù, ci dicono gli astronomi in questi giorni. Il plutoide, il cui diametro è di 2400 km, è ricoperto di metano ghiacciato con una temperatura media di 30 gradi Kelvin, ovvero circa 240 gradi centigradi sotto zero. Eris fa un lungo viaggio intorno al Sole. La sua orbita si completa in 560 anni e ora si sta avvicinando al punto più lontano dalla nostra stella. Si conoscono altre condizioni superficiali di pianeti o plutoidi presenti nel Sistema Solare, nelle quali si incontrano superfici di metano ghiacciato. E in questi casi si sa che più la distanza dal Sole è elevata, più questo ghiaccio si conserva e chiude il pianeta in una guaina completamente stabile. Per analizzare la materia che c'è su un pianeta si studia la luce che ci invia, puntando i telescopi sulla sua superficie. La colorazione di questa luce ci rivela la miscela di elementi. Ebbene, le analisi in corso dicono che lo strato di metano ghiacciato sta diminuendo di intensità. Fra due secoli, quando Eris sarà più vicino al Sole, questo potrà accadere. Cosa invece sta succedendo in questi anni? Risposte al momento non se ne hanno. Potrebbero essere in corso delle possenti eruzioni. Questa è l'ipotesi al momento formulata. La sonda New Horizon della NASA incontrerà Plutone nel 2015 e ne studierà la superficie. Plutone è più piccolo, ma simile a Eris. Forse allora si capirà qualcosa. Mia, se vien con me, c'è il foxtrot che fa per te, che è la frenesia di ballare. È un foxtrot rivoluzion che si chiama Charleston, l'avrai ben sentito nominare. Lola, cosa impari a scuola, manco una parola, sai di Charleston. Buonasera Maurizio Menis. Buonasera Federico, buonasera a tutti. Ecco, ti saluto con questa musica che senti sul fondo, sfrenata. È un Charleston. Esatto, è un Charleston. Tu non puoi nemmeno immaginare cosa possa centrare questo Charleston con il tuo... No, in effetti me lo chiedevo. Con l'argomento che vuoi proporci questa sera, che è tutt'altro che allegro. Questo brano veniva dagli Stati Uniti, dall'America negli anni 20. Il titolo originale era Yes Sir, That's My Baby. In italiano era stato tradotto Lola, cosa impari a scuola. Famosissimo. Adesso cominci a sentirlo. Cantato qui dal altrettanto famoso in quegli anni duo Fasano. Però, ecco, Lola è il manifesto, è il testimonio, il brano testimonial del Charleston e di quell'epoca folle e spensierata che arrivò dopo la prima guerra mondiale. Certo. E arrivò dopo, ecco, allora, senti questo passaggio. Lola, sai, non è una buona. Senti che cosa dicono. Ecco, capito. È finita la spagnola. La terribile epidemia che si sparse in tutto il mondo in quegli anni, 1918-19, fu la punta acuta. Ecco qui, infatti, io leggo sui in America passò l'aspettativa di vita quell'anno da 40 a 30 anni. Pensa tu che terribile flagello. Vedo qui nel tuo elenco AIDS, dengue, influenza, anche perché però a volte è la spagnola, Ebola, febbre gialla, epatite A, B, C, D, E, qui c'è tutto l'alfabeto. Stiamo per parlare di epidemie. Stiamo per parlare di epidemie, che è un argomento che ogni tanto va di moda, ogni tanto ci si dimentica. In realtà di epidemie ce ne sono sempre, costantemente sparse in tutto il mondo, colpiscono molto ferocemente nelle zone tropicali, spesso nei paesi poveri dove c'è scarsa igiene, ma arrivano anche in Europa. Alcuni punti percentuali di popolazione anche in Italia sono colpite per esempio da epatite B o da epatite C. Certo. Tanto per dare un'idea, come dire, a livello mondiale la mortalità fra i 15 e i 60 anni, quindi in età adulta ma ancora non vecchi, per malattie infettive su 1000 persone è di circa 70-80 su base mondiale. Se poi andiamo in Africa troviamo che sono 400. D'altra parte questa guerra con i virus è proprio insita nella natura. Leggevo ieri che il 100% dei batteri delle profondità marine muoiono per infezione virale. Loro stessi. Loro. E quindi, insomma, ci sono degli istituti che evidentemente combattono queste infezioni. Noi abbiamo intervistato Mauro Giacca, che è il direttore di uno dei più importanti istituti, l'ICGEB, cioè l'Istituto Internazionale di Ingegneria Genetica e Bioingegneria. E cosa le hai chiesto all'inizio? Io la prima domanda che gli ho fatto è stata se di fronte a tutti questi agenti infettivi diversi, che hanno dei modi di infettare diversi, si comportano diversamente, se esiste insomma un criterio comune per combattere tutte queste infezioni. Va bene, sentiamolo. Dunque, non esiste un criterio comune dal punto di vista del fatto di poter avere dei farmaci universali che ci proteggono da tutti i virus, perché ciascuno di questi virus ha evoluto in millenni le sue strategie per replicarsi. Quindi, se vogliamo trovare dei farmaci, questi sono molto diversi fra di loro. C'è un criterio comune che però è basato sul fatto che noi abbiamo un potente alleato nella lotta contro i virus che è rappresentato dal nostro sistema immunitario, e la maniera in cui il sistema immunitario reagisce contro i virus è di nuovo diversa da virus a virus, ma si basa su delle due armi comuni: una è la produzione di anticorpi che bloccano le successive infezioni e l'altra è l'attivazione di una particolare classe di globuli bianchi che si chiamano linfociti T citotossici, che uccidono le cellule infettate. Uccidendo le cellule infettate dal virus impediscono che il virus si replichi, quindi diminuiscono la probabilità che altre cellule si possano infettare dal virus. Quindi questi sono i nostri capisaldi che ci difendono dalle infezioni virali. Quindi esistono criteri comuni molto, molto di base. Sono molto, molto di base, però sono anche alla base della più efficace strategia che noi abbiamo per proteggerci dalle infezioni virali, cioè quella di vaccinarci. E lì entra in campo l'ingegneria genetica e le biotecnologie, perché i nuovi vaccini potrebbero essere fatti utilizzando proprio queste tecnologie, in cui invece di usare i virus, come si dice, attenuati o inattivati al calore, alla formalina, per vaccinare, potremmo usare i geni dei virus manipolati grazie all'ingegneria genetica in maniera molto più efficace e anche molto più sicura. Ecco, senta, la grande paura è la grande epidemia, appunto quella che a un certo punto sconvolge la vita addirittura di una comunità, quando non di un paese. Oggi si lavora molto, ecco, sul piano della prevenzione, cioè si cerca di fare in modo, quando scoppiano dei focolai, di tenerli lì, di tenerli buoni. Ma ammettiamo che a un certo punto, prima o poi, per qualche ragione, non ci si riesca. Siamo oggi attrezzati per fare fronte ad una epidemia conclamata in modo qualitativamente superiore rispetto al passato? Che cosa succederebbe presumibilmente? Beh, se parliamo di influenza, per esempio, potremmo porci due domande. La prima domanda è: cosa succederebbe se ritornasse il ceppo dell'influenza umana del 1918? Oggi noi sappiamo che questo ceppo era particolarmente virulento e quindi all'inizio dell'epidemia ucciderebbe sicuramente molte persone, prevalentemente maschi in giovane età, perché molta della patologia è legata alla risposta immunitaria. Però immediatamente noi avremmo a disposizione dei farmaci che non avevamo, e una di quelle situazioni in cui la ricerca effettivamente ha sviluppato dei farmaci che, se presi all'inizio della malattia, riescono a bloccarla con grandissima efficace, quindi conterremmo l'epidemia e poi immediatamente isoleremmo il virus e produrremmo un vaccino per quel ceppo di virus che quindi sarebbe conterrebbe in maniera molto molto ragionevole la pandemia. E questo non vuol dire che l'impatto non sarebbe importante socialmente, ma sicuramente non sarebbe devastante come lo è stato nel 1918, senza considerare che ovviamente i criteri di supporto ospedaliero e di assistenza sanitaria generale dei pazienti ovviamente sono paragonabili a quell'epoca. Ecco, lei prima infatti mostrava un grafico in cui l'età media improvvisamente per un'epidemia di influenza negli Stati Uniti passava nel 1918 da 50 anni a 40 anni della popolazione generale, c'era talmente l'impatto nella popolazione generale che l'aspettativa di vita media era scesa di 10 anni nel 1918. Allora, pensando a quello che è accaduto per esempio rispetto alla SARS, quindi anche alle polemiche che sono seguite, questa reazione energica che c'è stata da parte di molti governi con acquisto di farmaci eccetera eccetera, c'è anche qui un criterio, se lei dovesse dire come si fa prevenzione, qual è la prima cosa? Ma immagino che di nuovo il modello possa essere il mondo dell'influenza e in particolare della spada di Damocle che in qualche maniera incombe con il rischio che il virus dell'influenza aviaria, che adesso è endemico nella popolazione di uccelli in Asia, possa prima o dopo adattarsi all'uomo ed essere trasmesso con contagio umano. E se questo avvenisse, sappiamo che questo virus è molto virulento per l'uomo, cioè nel piccolissimo numero di casi in cui il virus ha infettato l'uomo, la mortalità è stata molto alta. Quindi come possiamo affrontare questo problema? Certamente non con l'isterismo con cui è stato fatto, cioè non andando correndo a prendere farmaci contro un virus che non sappiamo quale sia, quindi non è detto che funzionino, e certamente non chiudendo le frontiere. Diciamo che la reazione non isterica a questo problema è quello di prendere i fondi che sono destinati alla reazione isterica e investire nella ricerca. Per esempio, una cosa molto intelligente che potremmo fare, che ovviamente viene fatta in alcuni paesi, è quella di investire nello sviluppo di vaccini efficaci nei polli che possono diminuire la quantità di polli infettati e quindi diminuire la probabilità che il virus possa adattarsi all'uomo. Così si conclude la puntata di Moebius di questa settimana. Vi ricordo che sul nostro sito www.moebiusonline.eu trovate il video sulla troupe dell'ultimo film di James Bond, quando hanno girato le sequenze nel deserto di Atacama, dove si trovano i più potenti telescopi del mondo. Buona serata a tutti e a tutte, ci sentiamo la prossima settimana. Radio 24 e Fondazione Sigma Tau vi hanno presentato Moebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. We'll be right back.